esiste neanche un treno, una strada che non sa nessuno, una meta da inseguire, no, non esiste una canzone, non esiste un'emozione, né un rimpianto da portarsi dietro, un ricordo da lasciare, sai, non esiste un'occasione per fuggire una